Va ora in onda Piazza Alta, un programma di e con Enzino e Marzi, alla conduzione tecnica Simone. One, one, one. Ed è il 23 aprile 2015. Incredibilmente la 21esima puntata della seconda stagione. Bravo, che addirittura in totale dovrebbe essere la 49esima. Buonasera a tutti, benvenuti, buon ascolto dalle F frequenze. Ormai Enzo è dichiarato l'intento di battere il numero di puntate quando si ama o le soap opera argentine. Marzi, con quando si ama hai denotato la tua, cioè hai dichiarato la tua età, roba che andava 30 anni fa. Ciao Simone, buonasera. Ciao a tutti. Oh, possiamo iniziare? Ma perché no? E allora andiamo con il primo brano che spacca. Simpatici amici, buon ascolto. Era il 1967, caro il mio Marzi, questa la conoscevo anch'io, non nel 1967. Chi era? Era Jimi Hendrix con Foxy Lady. Dove, tra l'altro, in un film meraviglioso, di uno dei tanti film belli di Verdone, che si intitolava Aiutami Simone, maledetto il giorno che ti ho incontrato, lui cerca di fare un documentario su Jimi Hendrix, il noto pittore. Ma senza andare troppo su queste cose qua, andate a vedervelo che è bello. Stasera, caro il mio Marzi, prima di dire di che cosa parleremo stasera, cultura, ma guarda, quasi agri a rotta di collo proprio. Ecco, bravo. Però prima dici un po', dici chi siamo. Io ti dirò chi siamo, come va detto. Con l'antibiotico male, perché mi hanno sbagliato il primo ciclo, sto facendo il secondo, mi sento però veramente col bioritmo a terra. Vabbè, però il mio analista ha detto che non è il bioritmo, non è il antibiotico, magari fosse l'antibiotico il problema. Sto prendendo le vitamine. Ci potete ascoltare in maniera tradizionale sulle 101.2 in FM, sì? Oppure in streaming su www.piazza.piazzalta.it. Assolutamente no. www.radiof.it. Perché mi guardi cioè, non fa il gobbo davanti, il gobbo chi l'ha sbagliato, scusa. Poi continua, che poi tra l'altro il gobbo è lì. Ce l'hai anche scritto davvero, Certo. Ma io sono abbacinato dalla tua visione. Senti, anche bacinella, ti voglio guardare ora prima che tu assurga alle cronache nazionali. Lascia perdere, non dire niente, vai avanti, su. Parlando di cultura. Va bene. Allora, poi abbiamo una app certo, Radio per, F dove sia potete per Apple che per Android, niente. Ti dirò che è una cosa interessante. È vero, è vero. E poi la poi novità possiamo, delle novità. Aspetta, e poi possiamo riascoltarci, potete riascoltarci e seguire un po' tutti gli appuntamenti e postare cose varie sulla nostra pagina Facebook Piazza Alta. Sì, ma quello che sarà forse la cosa più innovativa del prossimo futuro della storia è Piazza Alta, il canale YouTube Piazza Alta TV. E questo TV vi potrà e aggiungete la B voi struccate la V Piazza Alta TV. No, vabbè, però lì poi troveremo. Può essere un'idea, Simone. Simone, certo. Visto che tu curi tutte le nostre in tutti i nostri social, a breve andremo anche su altri social, no. Vabbè. Oh, di che cosa parliamo stasera? Lo diciamo la prova. Guarda, lascio a te. Ma te saresti anche già pronto per fare quella cosa lì? Ma io sono nato pronto. Allora aspetta che forse sono pronto anche. Perché pronto lo farei io? Pronto è il mio ora? Secondo nome. Il terzo è l'appretto con il manico. questa la capiscono chi ha più di 40 anni. Ma in effetti io non vuoi farci anche due battute sulla Girella? Non lo so. La Girella, vabbè, te lo dico dopo. Fai merenda con Girella. L'argomento di questa settimana. Cultura. Il personaggio? Chi? Lo vuoi dire? No. Ti posso solo dire che parliamo, sì, dopo lo dico, di un evento che si terrà questa fine settimana e che sarà è organizzato dalla neonata Pro Loco di Foiano, di cui abbiamo degli ospiti e dei rappresentanti illustri, già stati nostri ospiti qualche settimana fa, ma d'altronde, visto che pullula la cosa, va riportata sempre su. Ma per la precisione parleremo di una mostra di quadri, poi ce lo direte per bene, ora lo dico male, non mi guardate male, fatti dal professor Gilberto, mi sono scordato, c'è il cognome, Gnalducci. Attenzione! Non parte, Max. Va bene, uguale. Gilberto Gnalducci, un foianese verace, un'icona dei nostri tempi, un esteta in Valdichiana, un artista poliedrico dalle molteplici tecniche, tempere, oli, pennelli e spatole, un narratore di emozioni delle nostre terre. Da Foiano la cultura della nostra terra a diffusione internazionale, questa sera a Piazza Alta. Let It Bleed, Dot. Questo era il 2014. Veramente, Enzo, le prime 10 sillabe non si capisce. Quando devi disannunciare la cosa non ci si capisce. Cioè quando disannunci la canzone, le prime 10 sillabe è difficile starti dietro. Ma perché? Ma per la pronuncia. Ma Let It Be, Let It Bleed, sì. Let It Bleed, Let It Bleed. Allora, dunque, questa è una band originaria di un piccolo paesino svedese abitato, pensa, solo da 600 persone. E una delle loro caratteristiche è quella di mostrarsi in concerto sempre celati dietro maschere e vestiti folcloristici. Che è un c'è un perché. Che è un po' il motivo anche per cui tu fai radio, ecco. Perché non potendo celarti la faccia preferisci rimanere all'oscuro. Anche se dobbiamo ringraziare la nostra videomaker Alice. Che salutiamo e che appunto fa le riprese per questa trasmissione. E vi dà anche la possibilità di vedere che proprio Brutti. No. Vabbè, okay. E finiamo. Ma andiamo avanti. Vuoi parlare tu o parlo io? Abbiamo questa fatto un nome importante. E che voglio fare questa riflessione subito, Enzo. Andando avanti con le nostre trasmissioni scopro e scopriamo insieme che abbiamo dei personaggi, dei compaesani che comunque si sono distinti in vari campi, ma non solo in Foiano, nelle nostre zone, ma anche al di fuori. Ma questo è un po' un fil rouge. Ecco, questo lo volevo dire da 6 mesi, fil rouge, non sapevo quando dire, l'ho detto. Qua, e via. È un po', diciamo, torniamo seri per un attimo, poi dopo vado via. E realmente ci stiamo accorgendo delle potenzialità dei nostri compaesani. E su Facebook mi chiedono anche te quando te ne andrai da adesso finisco e poi vado via una settimana. Bene. Allora, però, tornando a bomba sull'argomento, stasera parleremo di una mostra di quadri, caro il mio Marzi e cari i nostri amici a casa, che viene organizzata dalla Proloco di Foiano. Ma prima di parlare della mostra, vogliamo presentare gli ospiti che ci andranno a presentare, a spiegare meglio di che cosa si tratta, non solo questo, ma anche di altre cose. Marzi, è tuo compito. Allora, abbiamo Gaia Faenzi. Buonasera. Ciao, lui non dice mai i titoli per cui siete qua. Io li scrivo anche sui testi, ma lui non lo dice. Per me siete persone. Noi siamo sottotitolati. Allora tu dici il nome, vicepresidente della Proloco. Poi abbiamo, vado per ordine di gradimento, Valeria Salvadori. Ciao a tutti. Segretaria della Proloco. Poi abbiamo il presidente della Proloco, Luca Posani. Buonasera a tutti. Almeno il presidente me lo sono ricordato. Bravo, ha fatto bene. Con loro parleremo appunto di questo evento che inizia domani pomeriggio. E che ha una rilevanza importante e che è dedicato a Gilberto Gnalducci. Allora, vogliamo iniziare con una prima domanda istituzionale? Sì. Aspetta che giro pagina perché me l'ero preparato. Allora, ho anche sbagliato un errore di battitura. Diteci a grandi linee di che cosa si tratta l'evento che parte domani. Di che cosa parla il presidente? Parlo io. Il progetto che inizia domani è un progetto che speriamo si ripeta negli anni e vorremmo in qualche modo esaltare ogni anno un foianese che ne ha fatto la storia, che ha contribuito a rendere il paese importante. Io vedo la luce nei tuoi occhi, vuol dire che prima o poi tocca anche a noi. No, io ero su un terrazzo a presentare, non ci sono mai stato, quindi non credo che mi toccherà. Vabbè, ma però volevo dire questo, è veramente una cosa, l'avevo già letta questa cosa, e secondo me è forse la parte più importante, senza nulla togliere poi alla mostra di cui parleremo, ma l'idea di ogni anno portare alla ribalta, almeno per qualche giorno, e far conoscere a tutti i foianesi e non solo, dei personaggi foianesi e quello che hanno fatto, secondo me è un'idea strepitosa che potrei aver avuto solo io, ma che non ho avuto io. Chi l'ha avuta questa idea? L'abbiamo avuto tutti insieme. Siete un però pare che l'abbiano avuta dopo che sono stati in trasmissione da noi. Ovviamente. Quindi, in ogni caso, è stato Marcello a illuminare la nostra notte. Nostra trasmissione è feconda. Ma perché dobbiamo sempre iniziare feconda, così? Da basta. Ora non inizio. E quindi nella prima questa è una mostra di quadri. Perché la vostra idea è proprio stata indirizzata a Gilberto Gnalducci quest'anno? Ma quella di Gilberto era perché in qualche modo lui era un grande esteta e ha in qualche modo contribuito a abbellire sia il paese che anche i salotti dei foianesi. Insomma, molti si ritrovano i quadri in casa da sempre. Ecco, infatti poi la particolarità, ma ne parliamo dopo, ora andiamo con un po' di musica, è che voi avete raccolto le opere dai foianesi proprio. Sì, sì, gran parte dalla famiglia, che ringraziamo, la Sonia, Susani. Questo infatti lo facciamo dopo, perché dopo nominiamo tutti, no, scherzo, ci mancherebbe altro. Io direi, Simone, di andare col prossimo brano, che è Umberto Tozzi. No, non è Umberto Tozzi, vabbè, allora vediamo un po' sentiamo un po' di che si tratta e poi proseguiamo. Buon ascolto dalle Rete Frequenze. Jungle Giants, Skin to Bone. Scusatemi. 2013, una band australiana formatasi nel 2011 a Brisbane, nel Queensland. Stasera, come se fosse Like Rain. Va in scioltezza, come se bravo. Provesse. Dal loro primo album del 2013, appunto, abbiamo ascoltato Skin to Bone. Io guarda, Enzo, una cosa che hai detto te prima, un po' velocemente, mi ha veramente colpito e secondo me va sottolineata. Che molte delle opere che andranno in mostra in questa manifestazione vengono fuori proprio dalle case dei foianesi, dalle case dei cittadini. E questa è una bellissima cosa. Tra l'altro, mi sembra che ultimamente si sta replicando questa iniziativa con gli ori, con le cose preziose. Sì, ecco, cioè A Foiano si sta alzando un po' il livello. Ecco, su certe cose siate meno parchi, meno diciamo così solidali. Ecco, dopo io chiedo già scusa. Era per una tutto. Battuta. certo, assolutamente. Attenzione. Ecco, però ne parleremo dopo delle case in cui sono andati a prendere, perché poi immagino ci sia stata anche una ricerca, però le facciamo dopo. Ecco, un'immagine di Foiano con le porte aperte a Foiano. Porte aperte a Foiano. Vabbè, ok. È dura, però ci proviamo. Allora, intanto, chi mi vuol dire quando inizia, dove si svolge, di che cosa si tratta questa mostra? Allora, la vicepresidente Gaia Faenzi. Aspetta, scusa, ho sbagliato. La vicepresidente Gaia Faenzi. No, perché io la conosco da anni, so che ci tiene. Grazie. Lo amo per questo e voi non lo sapete. Allora, questa mostra partirà domani sera, venerdì 24 aprile, dalle 19 in poi, presso la Sala Furo del Furia. Ok. Nell'occasione faremo anche una cena buffet. Dove io sarò presente. Esatto. Te marci? Sì, alle 7 più o meno è l'orario in cui mi viene appetito. Mi mangerebbe alle 6 allora normalmente, però per questa cosa. Allora 7 un minuto al massimo, perché già pullula di prenotazione. Benissimo. È possibile ancora prenotare? Sì, fino a domani all'ora di pranzo. Abbiamo un recapito da chiamare? Certo. Valeria o così. Luca. Ma proprio Gaia. Vabbè, i numeri li trovate sulla pagina Facebook, esatto, della Prolo. Esatto, perfetto. Però chi non è interessato come me alla parte culinaria, che cosa viene esposto? Vengono esposte le opere di Gilberto Gnaldulce. Abbiamo scelto i quadri relativi al pennello. Ecco, aspetta, fermi. Aspetta, questa è una cosa importante. Aspetta, Marzi, aspetta, scusa, fermi. Allora, intanto, da dopo la cena inizia si può visitare la mostra. Certo, durante la cena i quadri sono esposti e sono visitabili. E poi sabato e domenica? Sabato e domenica è aperta al pubblico, sabato pomeriggio, domenica mattina e domenica pomeriggio. E quindi è possibile andare a visitare. È possibile andare a visitare al di là della serata di domani sera, nella quale è previsto anche un concerto jazz. Oh, vedi che Marzi corre, vedi, parecchio. Marci, già era arrivato al periodo blu, al periodo professor blu rosa. Fermiamoci un attimo sulla serata. Quindi c'è una scena e poi c'è un gruppo che suona jazz. Non importa. Dici solamente che, aspetta, perché qui ci stiamo muovendo. Abbiamo subito dopo la cena o durante la cena? No, subito dopo la cena. Ma durante la cena e continuano per tutta la serata. Nell'occasione viene Lucio Gnaldulce, canterà 3 o 4 pezzi jazz. Questo cognome è un caso? No, è il nipote di Gilberto Gnaldulce. Perfetto. Tra parentesi, bravissimo cantante, conosciuto da tantissimi foianesi. Infatti tanti di quelli che già hanno prenotato vengono proprio per vedere anche, non solo Gilberto, ma anche Lucio. Se non erro è Lucio Gnaldulce con il Train Jazz Quartet. Esatto. Ma non è che non erri, leggi lui, bene. Lui è andato su Facebook e trova tutto. Infatti su Facebook potete trovare tutto ciò e molto di più. Quindi questa è la prima serata, quindi domani sera mangeremo bene. Ah, tra l'altro vogliamo dire di che cosa si tratta? Avete già il menù? Sì. Allora, aspetta, facciamo così. Però la cosa più importante è da dire che voi avete questa politica del chilometro zero, chilometri zero. Chilometro zero. Chi ce lo spiega? Il Luca. Presidente che guarda in un modo atterrito. Sì, ogni serata che faremo sarà a chilometro zero. Tutti i prodotti vengono da Foiano, dalle aziende foianesi, molti fra le cui hanno offerto la materia prima, e questa cosa si ripeterà in ogni nostro diciamo evento. Che è un vostro must, cioè sì, deve cioè essere scroccare così. È l'ABC, no, scroccare chilometro zero, intendevo, che anche lo scroccare ha un suo perché, chiaramente il chilometro zero anche per chi viene, quindi venite a piedi così diciamo in via Solferino, dove è la Furia del Furia. Così non inquiniamo. Perfetto. Beh, un messaggio di pace da parte di Marzi. E intanto, infatti, la prossima canzone di Umberto Tozzi. No, niente. Ma una volta me lo metterai, no. Umberto Tozzi. No, no. Ecco. Andiamo. Buon ascolto. Dalle F frequenze. Angelo mio. Io non credevo che questa sera sarebbe stato davvero un addio. Angela, credimi, io non volevo. Angela, Angela, angelo mio, quando t'ho detto che voglio andarmene, volevo solo vederti piangere, perché mi piace farti soffrire. Volevo farti piangere, vedere le tue lacrime, sentire che il tuo cuore è nelle mie. Angela, Angela, angelo mio, ma tu stasera invece di piangere guardi il mio viso in un modo strano, come se fosse ormai lontano. Ti prego, Angela, no, andartene, non puoi lasciarmi qua giù da solo, non è possibile. E tutto a un tratto io possa perderti, perdere tutto. Oh, Angela, Angela, angelo mio, io non credevo che questa sera sarebbe stato davvero un addio. Angela, credimi, io non volevo. Angela, Angela, angelo mio, Angela, Angela, angelo mio, Angela, Angela, angelo mio, Angela, Angela, Angela. E questo, lo dico con la voce rotta dalla commozione, era Luigi Tenco con Angela, e poi spiegherò perché. Era una canzone del 1962 che apre, che è la canzone del lato B del disco, appunto, che vi proprio dico, ma non si, che dice, si intitola Luigi Tenco. C'è perché tantissimi sono corsi e ricorsi storici, sono emozioni vere, perché permettetevi una piccola parentesi, perché faremo due parentesi nell'arco di questa serata, e non era prevista, ma visto che c'è questa canzone lo ma dico. Sì, facciamo questa canzone fa parte di uno spettacolo che vede come protagonista. Aspetta, prima del titolo, lo dico io: Pizza, Mamma e Mandolino, che andrà in scena sabato sera a Spazio Sema ad Arezzo. Ad Arezzo, e i cui due protagonisti sono Francesco Botti e Enzo Ferraro, che noi ci pregiamo di avere qui. Io guarda, non so, no, ma da sabato sera gli dovrò dare del colore, è una cosa bellissima. No, bellissima non lo so, però io mi sto divertendo tantissimo. Io ve lo dico giovedì prossimo, se è bellissima, perché no, non volevo dire che era una cosa bellissima, volevo dire che è una cosa bellissima per me, mi sto divertendo tantissimo, perché faccio una prova. Sì, ma anche da dai, coglione. Anche i primi riscontri informali dicono che sei un grande artista. No, no, non è vero, non è un vero, grande però, attore. Però, tra l'altro, alla conduzione tecnica c'è ovviamente Simone. Ah, ma non faceva la conduzione artistica. E non è un caso che in questo spettacolo di tre che siamo qui uno manchi, cioè quello che non è capace a fare qualcuno niente. Qualcuno che apre e chiude la porta ci vuole. No, o meglio, ci vuole qualcuno che stia a casa a lavorare. E quello sarei io. Come facciamo a tornare a sé? Quindi ricordiamo, scusami, fammi fare questo marchettone. Sabato sera Spazio Seme, anche se è già tutto esaurito per sabato sera, ma visto che è tutto esaurito, il 26 domenica alle 17 c'è una replica immediatamente dopo, sempre che usciamo vivi dalla prima, perché esatto, ma io sarò lì ad accertarmi che non usciate vivi dalla prima. E comunque, sì, per chi non trovasse posto allo Spazio Seme sabato sera, c'è sempre la mostra a Foiano. No, ma assolutamente pittura di Gilberto Gianducci. E torniamo a bomba. A bomba. Oh, allora vediamo la domanda che hai fatto fuori tempo. Se vuoi faccio quella che dovrei fare tra 5 minuti, se vuoi. Io scherzo. A me fa morire, io scherzo, lo prendo in giro perché gli voglio bene come se fosse normale. E andiamo avanti. E no, rifai la domanda, non te la ricordi più, No, allora, il menù l'hai chiesto te, perché dunque, chiaramente interessava. Il professor Gnalducci insegnava a Foiano, giusto? Esatto. Oh, raccontateci un po' la sua storia, per quello che sapete, insomma, la sua storia artistica, e quali quadri avete scelto e perché. Allora, Gaia. parlo io, vado. Allora, Gilberto Gnalducci nasce nel 1912 a Foiano e in sé innanzitutto studia a Foiano e finisce i suoi studi alla al Magistero d'Arte di Firenze. Da lì, da buon foianese, torna in patria, perché Gilberto Gnalducci non è mai andato via da Foiano se non per sporadici periodi. E vive a Foiano, si sposa a Foiano con una ragazza foianese e lascia a Foiano traccia delle sue opere, perché anche a livello pubblico collabora con il comune e lascia nei borghi foianesi dei segni della sua presenza. La ristrutturazione sia di San Domenico che della Collegiata sono di Gilberto Gnalducci. Questo lo ignoravo, Marcello lo sapeva ma fa finta di niente. Ma sì, ci ne parlavamo insieme a al ministro dei beni culturali, esatto. Stasera. Sì, no, ma io difendo a spada tratta Marci, c'era anch'io, lo certo, so. Certo, ci mancherebbe. Sapete che io stravedo per Marci. Sì, ma sta calmo, amico delle stelle. Allora, tornando a Gilberto e abbandonando Marcello, che stasera quanto è stato facile lasciarsi e riprendere, hai visto? Veramente. Un attimo. Mi ha fatto il divorzio breve. Dopo ti dico una cosa. Fuori ora, per favore. Tornando a Gilberto Gnalducci, con Luca ci siamo presi la briga di andare a scegliere queste opere a casa dei foianesi. Abbiamo deciso di puntare tutto su quella che era la sua pittura a tempera, la pittura a olio. Lui è partito da una semplice pittura a olio per arrivare fino alla spatola, allo stucco. Noi abbiamo scelto quella linea lì, lasciando indietro gli acquerelli, ma non senza nulla togliere agli acquerelli di Gnalducci. È stata una scelta un po' dovuta, quindi abbiamo scelto questi quadri qui, quadri bellissimi. Quanti sono all'incirca? In tutto sono 26 opere. Però, quindi, abbiamo selezionato molto, siamo stati molto molto selettivi, perché abbiamo scelto gli inediti, perché ricordo un attimino che ecco, Gilberto Gnalducci ha avuto già una mostra a Foiano nell'anno 2001. Ah, ok. Quindi dopo 14 anni torna in mostra e noi abbiamo scelto gli inediti. Credo che solo uno o due sono già rivisti. Vabbè, La casa nel bosco, perché Gilberto Gnalducci, nel suo essere tra virgolette eremita, comunque ha partecipato a una mostra e ha vinto una medaglia con questo quadro qui, che è La casa nel bosco. Quindi era doveroso riportarlo in mostra. E poi un altro che sai che mi sfugge in questo momento. Ah, il cascinale. Quindi case, il bosco, cascinale. Le so tutte. Sì, sì, sì, sì, sì. Lui ritraeva i paesaggi toscani, paesaggista toscano e soprattutto foianese. Troppi quadri e troppi ritratti foianesi ci ha lasciato. E soprattutto i particolari dei quadri. I suoi rossi e i suoi rosa sono veramente molto particolari. Fermiamoci qua, perché dopo sul periodo rosso e rosa già Marzi avrà domande da fare come se piovessero. Andiamo finalmente con Umberto Tozzi. No. Thank you. questo cambio di ritmo, gli Arcade Fire con Wake Up, un disco del 2005, un CD, chiamatelo come vi pare, dall'album Funeral. Evviva, evviva. Marzi, non senti con le cuffie? No, sento in sottofondo. Quanto dura sta cosa? Che meraviglia. Ma dopo Umberto Tozzi vedrai, se no non si smette stasera. No, comunque veramente in 90 puntate che abbiamo fatto Tozzi non l'ha mai messo, vero? Un motivo ci sarà. C'è un motivo, Simone? Ce ne sono molti. Vabbè, però insomma Tozzi però ha messo i Pink Floyd. Allora ricordiamo una cosa che dovevi fare tu, Marzi, ma non è vero, io faccio per farti fare brutte figure, ma lo so, ma abbiamo una bene, pagina sì. Facebook che pullula di appuntamenti, perché quando non ci sentite in voce ci siamo in digitale, noi ci siamo e vi guardiamo, ah, controlliamo tutto. Ad esempio, e tra l'altro approfittiamo ancora per ringraziare di nuovo Simone, che è lui che cura tutto questo. Grazie Simone, Simone, prego, grazie, prego, prego. Allora, no, perché lo fa ma non la fa troppo lunga, quindi no. Allora, il lunedì che cosa c'è, caro il mio Marzi? Ma un lunedì una serata da leone. E che cos'è? Sono uno o due film che Simone propone a tutti, e sempre di altissima qualità, che non necessariamente quella filmografia filo-sovietica russa, no, tipo La corazzata con gli occhi, cioè anche un eccezionale, sì, veramente da noi apprezzato tanto quanto, forse soprattutto, forse di più, perché è più al nostro livello, sì. In più il sabato ecco che appare con la rubrica famosissima, che io non mi ricordo mai, appuntamenti, i consigli del weekend, che è un po' quello che stiamo, è anche scritto qui, vedi, che è un po' quello che stiamo facendo adesso. Noi stiamo consigliando cosa fare nel prossimo weekend, e questo lo trovate sulla pagina Facebook. State benissimo. Io riprenderei con i nostri ospiti, perché gli amici della Proloco di Foiano, esatto, abbiamo scoperto che tra i tanti diciamo personaggi che hanno portato lustro a Foiano, Gilberto Gnalducci è uno di quelli che è già stato anche riconosciuto in passato, vincendo delle medaglie a seguito delle mostre che ha fatto con i suoi quadri, con le sue opere, e questo fine settimana in Sala Furio del Furia ne ospitiamo un buon numero, la maggior parte inedita. Ok. E vengo a scoprire che anche è stato lo Gnalducci un discepolo di un altro famoso diciamo artista. Dillo te però, Lurzi, che tra l'altro la settimana scorsa ci aveva ricordato un altro nostro ospite, che era Gian Piero Chiavini, il dottor, esatto. Chiavini, sì, ma perché qui pullula, il paese pullula di persone che sono fini intenditori, che si sono distinte, sì, prima, e poi dei fini intenditori dopo, che seguono e fanno cose. Perfetto. No, sicuramente. Ho delle facce, ma davanti a me, attonite, ma come il canale YouTube? Per la serie potevamo stupirvi con effetti speciali. Marcello, la gente deve sapere, perché non siamo solo voce, siamo anche facce. Imbarazzo. Allora, abbiamo detto che questa mostra, provo a fare il serio ma senza inutilmente, parti te, vai. Questa mostra andrà solo per questo fine settimana, vero? Sì. Fino a domenica pomeriggio? Fino a domenica pomeriggio, esatto. Oh. Quante famiglie vi hanno dato i quadri? Tanto per dare un'idea, all'incirca, Gaia, non è che ne devi dire un numero preciso, siete dati da 3 persone, da 10 famiglie, 12? Diciamo che il numero importante viene dalla famiglia della Sonia Susani, e poi un altro numero discreto da quella di Venturino Burazzi. Sonia Susani, che è discendente? Che è nipote di Gilberto Gnalducci, e un altro numero è da Venturino Burazzi, della famiglia Burazzi. E poi è nata una lotta fra i foianesi per portarci i quadri. Ma questo è bello. Per la serie Lanci dalle finestre di Paio, quando passi sotto. Ce l'hanno proposti tutti i foianesi. Ha fatto, quindi ha lavorato molto lo Gnalducci, però, sì, mi sembra di capire. Sì, lo Gnalducci era un interior designer. Attenzione, qui si cambia. Sapresti dire qualcosa? Il mio analista me lo menziona sempre. Devo fare interior design, devo rinnovare me stesso. Oh, fammi parlare, su. Scusa. Tesoro. Mamma mia. E lui in pratica arredava le case nell'occasione, regalava anche un quadro a chi faceva arredamento da lui. Tanti però a seguito del primo quadro ne hanno collezionati una serie, perché sono veramente belli, quindi uno veniva regalato e l'altro gli Ecco, io mi faccio una domanda di cui non ho idea, cioè non so quello che sto chiedendo. Mi fai paura. Sì, però so che Gaia è una esperta, sta diventando ormai un'esperta, forse è la massima esperta che abbiamo a Foiano per quanto riguarda la pittura su tela. L'ho detto a caso, ma questo sì, non lo so. Diciamo cose a caso. Mialducci, come potremmo inquadrarlo? Cioè, che tipo di pittore era? Lo sappiamo? Lui ha seguito il naturalismo toscano, lui ha seguito quello stile lì e ha portato avanti sempre quello stile lì, quindi comunque sia, cioè con quello che è l'olio su tela ha seguito quell'impronta lì, sempre molto tradizionalista. Te che dici, Mars? Ok, allora andiamo con un altro. L'olio su tela onestamente mi stimolerebbe molto. Ma visto la zona della Valdichiana, però se ce lo dici fuori onda. E ora finalmente Umberto Tozzi. No. Mama was queen of the mambo, papa was king of the Congo. Deep down in a jungle, I start banging my first bongo. Every monkey like to be in my place instead of me, cause I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong. I went to the big town where there is a lot of sound, from the jungle to the city looking for a bigger crown. So I play my bongi for the people of big city, but they don't go crazy when I banging on my boogie. I'm the king of the bongo, king of the bongo. Hear me when I come, baby. King of the bongo, king of the bongo. Nobody like to be in my place instead of me, cause nobody go crazy when I'm banging on my boogie. I'm a king without a crown, hanging loose in a big town, but I'm a king of bongo, baby. I'm the king of bongo bong. King of the bongo, king of the bongo. Hear me when I come, baby. King of the bongo. Hear me when I come. They say that I'm a clown, making too much dirty sound. They say there is no place for little monkey in this town. Nobody like to be in my place instead of me, cause nobody go crazy when I'm banging on my boogie. I'm the king of the bongo, king of the bongo. Hear me when I come, baby. King of the bongo, king of the bongo. Hear me when I come. Banging on my bongo, all that swing belongs to me. I'm so happy there's nobody in my place instead of me. I'm a king without a crown, hanging loose in a big town. I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong. King of the bongo, king of the bongo. Hear me when I come, baby. King of the bongo, king of the bongo. Hear me when I come. Mama was queen of the mambo, papa was king of the Congo. Deep down in the jungle, I start banging my first bongo. Every monkey like to be in my place instead of me, cause I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong. Hear me when I come. Hear me when I come, baby. Un saluto a Manu. Manu, ciao. un saluto fatto a mano, veramente. Questo è Clandestino del 2000. Questa era veramente bella. La canzone in realtà è un remake del brano che lo stesso Manu, ciao, scrisse per il suo precedente gruppo, che erano in Mano Negra, che è King of the Bongo. Ah, non è quella? Ma pensa te, io leggo e poi mi accorgo di dire cose intelligenti, ma che non ho scritto io, ovviamente. Devo andare avanti con le battute, ma lascio perdere. Ma fai come vuoi, puoi fare quello che vuoi, tanto stai facendo quello che vuoi questa sera. Famoso barrista Manolete. Nessuno. La scrivo dopo su Facebook. Bravo, è meglio. Ricordiamo che siamo qui in compagnia degli amici della Proloco, presidente, vicepresidente e segretaria, che non ha proferito parola, ma evidentemente lei sta prendendo appunti. Lei scrive, lei segna, lei sta facendo il verbale di questa puntata. Ricordiamo un altro appuntamento importantissimo, tradizionale, che ormai è entrato a far parte della storia di Foiano recente, moderna, che è la camminata del donatore, che è giunta alla sua 42esima edizione. Quindi ha 2 anni meno di me e basta, per dire. Io ho 8 anni, già la correvo e va bene. che si svolgerà appunto il 25 aprile, sabato mattina, a partire dalle ore... Dalle 9 in poi, diciamo che... Dalle 8 in poi c'è gente che prepara. E tipo tu. Tipo mu. Tipo mu. Tu, è venuto fuori un tu, così. Tipo te. Pensavi Tozzi. Che tu, ecco, tu, ed ecco tu di Tozzi. No, niente. E si può anche iscriversi la mattina stessa, no, giusto? Tra l'altro c'è una mini camminata non competitiva per la campagna foianese e poi c'è quella di 12 chilometri e mezzo che ormai è diventata famosa. C'è gente che fa chilometri, chilometri e chilometri perché si svolge anche questa nelle campagne foianesi. È un percorso molto bello e mi dicono anche impegnativo per chi c'ha il fisico che per poterlo fare. E noi, ai noi, io no. Ormai da un pezzo. Io la farò in scooter, penso. Che comunque è difficile perché se vai in campagna nei campi. No, ma pare che uno dei premi più ambiti sia poi la ciaccina o i crostini o il ciambellone alla fine della corsa. Che è molto buono. Fatto dalle nostre amiche volontarie. Vedi, vedi che c'è sempre qualcosa da raccontare di questo paese interessante. Ma tornando ai nostri ospiti di questa sera, ovvero Gaia, Luca e Valeria, che sono rispettivamente vicepresidente, presidente e segretaria della Proloco di Foiano, volevo chiedervi, voi ovviamente avrete, in quanto associazione, anzi regina delle associazioni foianesi, avrete dei soci, degli associati, ma se qualcuno volesse associarsi, guarda che vi sto facendo un marchettone, se qualcuno volesse associarsi, come potrebbe fare? Come potrebbe fare? Ah, domani sera subito insieme alle tartine insieme alle tartine vendiamo anche le tessere da Proloco e poi dalla prossima settimana sia presso le ripicche, presso l'erboristeria Iris verranno, sarà possibile acquistare la tessera della Proloco che io ho già, voglio dire. Ora stasera, a proposito, annunciamo in diretta, c'è anche il filmato che testimonia, anche Marcello finalmente farà la tessera della Proloco. Va bene. Stop. Cioè, te non hai ancora la tessera della Proloco. Nessuno mi, cioè, ha... mi è sfuggito, mi sono... questa cosa. Sfuggito. Vuol dire che non sono poi così importante anche, nella credo, tua vita. Credo che anche il tecnico del suono, vero, non abbia la tessera. Cioè, tutte quelle maffine dell'altra volta quando si venne, l'unico che l'ha fatta è Enzo, era tutta una farsa. Qui ci sono delle persone serie e meno serie. Si nota da solo. Marci mi è caduto sulla testa. No, ma ora faremo anche la tessera, ma non ci fermiamo sulla io tessera. Io non gli parlo più finché non fa la tessera. Vabbè, allora facciamo una tessera nel prossimo intervallo. Fa parte dei benefici dei tesserati della Proloco. Volevo dire un'altra cosa che però ormai è completa. Ah no, sì, scusate. Questo abbiamo detto che l'evento che a più breve avverrà, e quindi la mostra dell'Ognal Duce a partire da domani sera. Avete altri... Questo non ce l'avevamo preparati, così almeno vediamo la vostra prontezza. Sì. Avete altri eventi in cantiere oppure cose che sono già iniziate e che state portando avanti? Io mi ricordo che alla presentazione della Proloco le cose che presentaste erano molte. Con quale cose state andando avanti? Allora, il 30 di aprile scadrà le adesioni per il centro turistico diffuso. Da parte dei commercianti inizierà il corso di preparazione per questa cosa. Ricordiamo un po' in due parole di che cosa si tratta. Sì, l'ufficio turistico diffuso, in pratica Foiano, non avendo la possibilità di avere un ufficio turistico concreto, un ufficio che sia aperto tutto il giorno, il comune con la Proloco hanno deciso di inserire in questo progetto i commercianti e quindi mettere nei negozi di Foiano, in quelli che aderiranno, dei punti di informazione. Dentro questi negozi ci saranno volantini, Deplian, brochure, quant'altro previsto non concesso, a disposizione dei turisti che verranno a Foiano e se vogliono informazioni entrano nel negozio e verranno ricevuti e avranno queste informazioni, perché i negozi avranno saranno riconoscibili quelli, sì, che aderiscono, sì, vero? Attraverso una bandierina con un simbolo classico della I dell'informazione. No, questa sembra una cosa semplice e scontata, ma in realtà, lo dico seriamente in quei pochi minuti di lucida follia che ho, in realtà è una cosa che per i turisti realmente che vengono a Foiano è importantissima, perché noi diamo per scontato che la collegiata sia lì, quell'altra cosa sia là, ma... E non è troppo scontato, perché io mi sono trovata in piazza, qual è San Domenico? Hanno chiesto a una signora e lei, ma boh, io... Però Enzo, bene, non è solo, se mi permetti, non è solo per i turisti, per chi viene da fuori, ma è anche una, secondo me, una presa di consapevolezza dei foianesi stessi, cioè il sapere dove indirizzare, dare indicazioni ad certo. uno che viene da fuori vuole anche dire avere la padronanza dei luoghi, di Foiano, in maniera tale da poter indicare, indirizzare. Ecco, sì, perché in realtà e qui siamo sempre più seri, cioè abbiamo delle opere importantissime all'interno soprattutto delle nostre chiese e forse non ce ne rendiamo conto, o non lo sappiamo o comunque sì, non ce ne rendiamo conto e non le valorizziamo, ma per fortuna ci siete voi. Infatti noi abbiamo nel calderone anche un altro progetto che è quello di riportare i due comparti di Predelle che sono in archivio Arezzo in collegiata. Ti interrompo subito perché la mia ignoranza. Ma infatti stavo partendo dicendo che in collegiata noi abbiamo una pala del Signorelli, di Luca Signorelli, ecco. Che tanto per dirlo in parole profane potete trovare anche al Louvre a Parigi, agli Uffizi. Che tra l'altro e noi ce l'abbiamo Parigi, messa lì così. No, ma Parigi è una delle città con traffico veramente sempre. Ma perché andare a Parigi? Quando ce l'hai qua? Potete Parigi, venire a Foiano in collegiata. Andate nella chiesa della collegiata e trovate la pala del Signorelli, dalla quale è stata depredata negli anni 90 la predella. Che sarebbe? Sarebbe la parte, lo scalino sotto la pala è composto generalmente da più comparti. Tavolette. Da più tavolette. E ce lo siamo fatti portare via. Ce lo siamo fatti. Dove si trova? Dove si trova adesso? In questo. Allora, le tavolette, quello lì era composto da tre tavole. Una è andata dispersa, due sono state ritrovate alla frontiera, sembra, sì. E sono in archivio ad Arezzo, mentre sempre facenti parte della pala c'erano anche due tavole con i santi, e le due tavole con i santi oggi sono nel Museo Civico di Foiano, che è qui in Piazza Alta. Noi vorremmo ricomporre questa pala e riportare tutto quanto in collegiata, e quindi stiamo facendo anche questo tentativo. Ci state qui. Lavorando. Benissimo. Ci stiamo ecco, lavorando. Fatta questa, se riuscite anche a riportare la Monna Lisa. Ma sì, ma perché no? No, perché secondo me te, Gaia, ce la potresti anche fare. Ma allora non mi conosci, perché io faccio parte di quelli che odiano la Monna Lisa. Ecco. Ma non lo so, ma è per questione campanilistica. Io amo la dama per me. Fallo per noi, ma ora Umberto Tozzi, dai. Told her to buy a baby diamond ring. If that diamond ring don't shine, he gonna take it to a private eye. If that private eye can't see, he better not take the ring from me. Oh dear, they call her Nanny Gold to make a pretty baby a Sunday coat. Oh dear, they call her Bellcat to make a pretty baby a Sunday hat. Come to my house with black cat bones, but take my baby away from home. Mother, that photo, where's he been? Up to your house and gone again. Bo dilly, have you heard? My pretty baby said she wasn't bird. Bo Diddley, che cantava Bo Diddley, dall'album Bo Diddley, e il suo produttore Bo Diddley. No, scherzo, ci mancherebbe altro. L'album era Bo Diddley. Bo Diddley. Boh, vabbè, insomma. Comunque era del 1958, quando i nostri genitori erano giovani. Ma sì, ancora sì. Beh, Dio mio, santo certo. Dio. Stiamo concludendo un'altra puntata strepitosa di Piazza Alta. Concludendo la ventunesima della seconda stagione. Sono le 22:57. Siamo con la Proloco di Foiano e stiamo arrivando alla fine, appunto, di tutto quello che era. Ci siamo programmati il fine settimana, ma in funzione di arricchire il nostro animo di cultura. Bravo. Di cultura fatta da chi? Da un foianese. Ma bravo, esatto. Ma poi quello che abbiamo capito è che ci sono molte pale da ricomporre. Esatto, e molte cose da riportare a Foiano. Perché alcune pale purtroppo non sono più integre. Quelle rotte non si possono più, sono andate disperse. Ci perdonerete queste battute di basso rango, ma vabbè. Vogliamo ricordare altri progetti che avete in cantiere. Grazie. Un altro progetto che è in cantiere è quello dell'albero. Che è innovativo, ce lo ricordiamo questo. Quello, sì, ve lo ricordate, però è andato avanti perché abbiamo coinvolto anche tutte le scuole. Spieghiamo meglio magari per chi non ci ha ascoltato la volta sì, scorsa. Certo. Il progetto dell'albero è in pratica vogliamo risistemare le zone verdi del paese, perciò chiederemo il contributo di tutti i foianesi regalando un albero e cercheremo di rimettere al posto quelle che sono le aree verdi del paese e magari anche crearne qualche luna di nuova. Fra l'altro la scuola, il professionale, insieme alla preside delle scuole medie e del professionale faranno tutti gli arredi urbani nella scuola. Bellissimo. Beh, io confermo questa cosa perché in località La Pace l'istituto professionale l'ha già fatto e sono delle, anche di pregiata fattura. Ma vedi? Solo pochi mesi e già quante belle cose. Esatto. Io direi che a questo punto ci possiamo dare appuntamento. Ricordiamo domani sera. Brava, da domani sera in Furio del Furia. Alla sala Furio del Furia dalle 19 in poi. Inaugurazione della mostra di Gilberto Nalducci. Seguiranno cena buffet e concerto jazz. E poi sabato e domenica ancora in Furio del Furia. Chi vorrà andare a vedere queste opere, e noi non mancheremo, cioè io verrò proprio a mangiare, figurati. Anche Marci me l'ha detto ora. Sì, sì, sicuramente. E quindi ringraziamo Gaia Faenzi, Luca Posani e la loquace Valeria Salvatori per questa serata con la noi. Quale secondo me ha tante cose da dire, però se le tiene per sé. Brava. E diamo appuntamento ai prossimi giovedì. Non mancate Piazza Alta, non mancate di seguirci. Ringraziamo Simone alla parte tecnica, ringraziamo Alice alla parte video. Salutiamo Paolo che è ancora a casa ma che tornerà presto a farci compagnia. Grazie a tutti voi per averci seguito. A risentirci. Da 1976. Buon ascolto dalle F frequenze. Avete ascoltato Piazza Alta, un programma di e con Enzino e Marzi. Alla parte tecnica Simone. One. Alle riprese video Alice. Ice. Arrivederci. Erci.